A piccola peste, capra a tre teste. Un artista in mezzo ai gangster, Gianni Celeste. Sto con tutta la mia gente, voi chi sareste? La roba fa viene dal niente, dalle foreste. Torno a vendere la droga, so che vorreste. C'è chi mi ucciderebbe se solo potesse. Non ho paura né dei rapper né della PS. Stiamo parlando di affari. La mia folle gelosia, Desdemone Otello. Quando piovono proiettili non basta l'ombrello. 1000 euro in tasca, prima solo il coltello. 5 stelle resort, prima manco l'ostello. Prima manco le seghe, ora ho le troie per bene. Ho fatto dalla strada il genio, il nuovo Martin Eden. Dopo di me il gioco finisce, Frederick Hegel. Mischio 5 sostanze, non è un bicchiere ma un becker. Muoio come un berserker, sento un formicolio. Io sono morte, calamita a livello Dio. Ho preso tutto quel che c'era, non so più cosa è mio. Il mio angelo custode mi ha appena detto addio. Piccola peste, capra a tre teste. Un artista in mezzo ai gangster, Gianni Celeste. Sto con tutta la mia gente, voi chi sareste? Sta roba fa viene dal niente, dalle foreste. Torno a vendere la droga, so che vorreste. C'è chi mi ucciderebbe se solo potesse. Non ho paura né dei rapper né della PS. Stiamo parlando di affari. Piccola peste, non faccio il parrucchiere ma cresco facendo cresto. Una capra sta da sola, poi cresce aggiunge due teste. Pensavo fossi un G ma in tasca hai solo due tessere. Tratto il mio conto in banca come un bambino che cresce. Pensando troppo in grande per chi ha di questo mestiere baby. Se tutto va male ritorno a fare il mestiere baby. Puoi essere incantato con lo sguardo sulle chain baby. Ci metti nel disco e ti ci salvi la carriera baby. E non serve che fai lo snob. Artisti mazzi gangster copriamo dal sud al nord. Tony Jugiar ti faccio un crocifisso nuovo. Sei già cosa rispondono se chiedi chi è il GOAT. Piccola peste, capra a tre teste. Un artista in mezzo ai gangster, Gianni Celeste. Sto con tutta la mia gente, voi chi sareste? Sta roba fa viene dal niente, dalle foreste. Torno a vendere la droga, so che vorreste. C'è chi mi ucciderebbe se solo potesse. Non ho paura né dei rapper né della PS. Stiamo parlando di affari. Capra a tre teste, vuoi fare il tetto a tetto? Ultimamente ce l'hanno tutti con me. Tengo in mano la patata bollente per te. Non c'è problema, sarà perché ho mostrato un po' di soldi e qualche cena. E nida a dollar, ora parliamo in asset. Il diavolo non veste Prada perché ha diversi outfit. Sono sempre io, sto solo cambiando scarpe. Sarò sempre io, sto solo comprando casa. Ma chi non è sport, lei mi dà il top su chi un escargot. Sono dal China, smezzo una birra con Tony Boy. I nemici sono morti, il tabellone segna il tot. A me piacciono le tozzi, mi piacciono le hoes. Belle case, buon cibo, mangi in ristoranti top. Con un nerd ho imparato a memoria tutti i cheat codes. Ho rispetto del mio block, arti da Milano Nord. Baby, non finirà oggi la mia stagione in God Mode.